Componimento 120° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Quelle pietose rime in ch'io m'accorsi di vostro ingegno e del cortese affetto e ben tanto vigor nel mio conspetto che ratto a questa penna la man porsi per far voi certo che gli estremi morsi di quella ch'io con tutto il mondo aspetto mai non sentì, ma pur senza sospetto infine all'uscio del suo albergo corsi. Poi tornai indietro perch'io vidi scritto di sopra al limitar che il tempo ancora non era giunto al mio viver prescritto, bench'io non vi leggessi il dí né l'ora. Dunque s'acqueti omai il cor vostro afflitto e cerchi uom degno quando sì l'onora. Fine del componimento.